No, io volevo entrare dentro lì, cioè, per me è stata veramente la scoperta di un mondo e soprattutto perché ci sono delle cose che nessuno ci ha mai spiegato, no? Cioè, chiunque di noi andando a scuola dice, vabbè, c'erano i braccianti, i mezzadri, sì, si dice che c'è la mezzadria, che è una cosa dove si fa metà tra il padrone e il contadino. Ma in realtà qui dentro si racconta un'altra mezzadria. Ecco, mi piacerebbe che tu, Pietro Nero, raccontassi questa cosa. Cioè, cosa voleva dire essere mezzadri negli anni 50, quali erano i rapporti col padrone, no? C'è, cioè, questa cosa affascinante, cioè affascinante, terrificante, che tu mi hai raccontato dei presenti, no? Cioè, quindi presente, il gradito presente è un regalo, no? Cioè, venivano contrattualizzati i presenti che ogni anno doveva fare il contadino al padrone.